sto passeggiando io. C'è un bel sole che mi vuol far sorridere di più. C'è pochi che vuol parlare delle cose belle, e tra poco accadranno qui in mezzo a noi. E non vuol più soffrire che tu lo vuoi, porto tutto il messaggio più bello che gioia, ti dà pace, ti dà tanta felicità. Sono sincero, soddisfatto davvero. Se tu ascolti la parola può darti la gioia, la pace e tanta felicità. Sono un pioniere, porto tutti da bere quell'acqua che per sempre ti disseta. Soddisfazioni tu vuoi avere, coraggio vieni fa anche tu il pioniere.